Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Addio alle armi di Ernest Hemingway. Traduzione di Fernanda Pivano. Arrivammo a Milano la mattina presto e ci scaricarono allo scalo merci. Un'ambulanza mi condusse all'ospedale americano. Andando in ambulanza coricato sulla barella, non riuscivo a capire in che parte della città stessi passando. Ma quando scaricarono la barella, vidi la piazza di un mercato e una bottiglieria aperta con una ragazza che spazzava. Stavano lavando la strada e c'era odore di primo mattino. Posarono la barella ed entrarono. Il portiere uscì con loro. Aveva i baffi grigi, un berretto da portinaio ed era in maniche di camicia. La barella non entrava nell'ascensore e discussero se era meglio togliermi dalla barella e salire in ascensore o portare la barella su per le scale. Ascoltai la loro discussione. Decisero per l'ascensore. Mi levarono dalla barella. «Adagio», dissi. «Fate piano». Quando mi svegliai mi guardai attorno. Dalle persiane entrava il sole. Vidi il grande armadio, le pareti nude e due seggiole. Le gambe nelle bende sudice sporgevano dal letto. Feci attenzione a non muoverle. Avevo sete, cercai il campanello e schiacciai il bottone. Udii aprirsi la porta e guardai. Ed era un'infermiera. Era giovane e carina. «Buongiorno», dissi. «Buongiorno», disse. E si avvicinò al letto. «Non siamo riusciti a trovare il dottore. È andato sul lago di Como. Nessuno sapeva che dovesse arrivare un paziente. Che cos'ha?» «Sono ferito. Alle gambe e ai piedi e anche alla testa. Come si chiama?» «Henry, Frederick Henry. Ora la lavo, ma non possiamo fare niente alle bende finché non viene il dottore. Miss Barclay, è qui?» «No, non c'è nessuno con questo nome.» «Chi era la donna che piangeva quando sono arrivato?» L'infermiera rise. «Mrs. Walker. Faceva il turno di notte e si era addormentata, non aspettava nessuno. Mentre chiacchieravamo mi spogliava, e quando fui tutto spogliato, tranne per le bende, mi lavò con grande garbo e delicatezza. Era molto bello sentirsi lavare. Sulla testa avevo una benda, ma lei lavò tutto intorno all'orlo. Dove è stato ferito?» «Sull'Isonzo, a nord di Plava.» «Dov'è?» «A nord di Gorizia.» Mi accorsi che nessuno di questi luoghi aveva un significato per lei. «Soffre molto?» «No, adesso non molto.» Mi mise un termometro in bocca. «Gli italiani lo mettono sotto il braccio», dissi. «Non parli?» Quando tolse il termometro, lo lesse e poi lo scosse. «Che temperatura ho?» «Non dovrebbe saperlo. Me lo dica.» «È quasi normale. Non ho mai la febbre. Ho anche le gambe piene di ferro vecchio.» «Cosa vuol dire?» «Sono piene di schegge di bombarda, vecchie viti e molle di letto e oggetti vari.» Scosse il capo e sorrise. «Se avesse corpi estranei nelle gambe darebbero infiammazione e avrebbe la febbre.» «Bene», dissi. «Vediamo che cosa ne viene fuori.» Uscii dalla stanza e ritornò con la vecchia infermiera del mattino presto. Fecero insieme il letto con me dentro. Mi riuscì nuovo e mi parve un procedimento mirabile. «Chi è la responsabile qui?» «Miss Van Kampen.» «Quanti infermieri ci sono?» «Solo noi due.» «Non ce ne saranno altri?» «Ne sta arrivando qualcuna.» «Quando arrivano?» «Non lo so, ma fa molte domande per essere malato.» «Non sono malato», dissi. «Sono ferito.» Andai a chiamare il portiere e quando venne gli dissi in italiano di comprarmi una bottiglia di cinzano e un fiasco di chianti alla bottiglieria e i giornali della sera. Se ne andò e me li portò avvolti nel giornale, li scartò e quando glielo chiesi tolse i tappi e mise il vino e il vermouth sotto il letto. Mi lasciarono solo, rimasi nel letto e lessi un po' di giornali, le notizie dal fronte e la lista di ufficiali caduti con le loro decorazioni e poi mi chinai a prendere la bottiglia di cinzano e me la tenni diritta sullo stomaco, col vetro freddo contro lo stomaco, e bevvi piccoli sorsi, lasciandomi impronte circolari sullo stomaco. dove appoggiavo la bottiglia fra un sorso e l'altro, e guardai scendere il buio fuori sui tetti della città. Le rondini volavano a giri e io le guardavo e guardavo i gufi notturni che volavano sui tetti e bevevo il cinzano. La gage mi portò un bicchiere con dentro un uovo sbattuto. Quando entrò, abbassai la bottiglia di vermouth dall'altra parte del letto. «Miss Van Campen ci ha messo un po' di sherry», disse. «Non deve essere sgarbato con lei. Non è giovane e questo ospedale è una grande responsabilità per lei. Mrs. Walker è troppo vecchia e non l'aiuta per niente». «È una donna magnifica», dissi. «La ringrazi tanto. Le porterò la minestra appena è pronta». «Non importa», dissi. «Non ho fame». Quando portò il vassoio e lo appoggiò sul comodino, le ringraziai e mangiai un po' di minestra. Poi fuori fu buio e vedevo i raggi dei riflettori che si spostavano nel cielo. Guardai un po' e poi mi addormentai. Dormii un sonno pesante, tranne una volta che mi svegliai tutto sudato e spaventato, e poi mi riaddormentai, cercando di dimenticare il sogno. Mi svegliai davvero molto prima del giorno e udii i galli cantare e rimasi sveglio finché non fu chiaro. Ero stanco e appena fu davvero chiaro mi riaddormentai. Quando mi svegliai la stanza era piena di luce. Mi parve di essere di nuovo al fronte e mi tesi nel letto. Le gambe mi facevano male e le guardai ancora nelle bende sporche e vedendole capii davvero. Mi sporsi a prendere il cordone del campanello e schiacciai il bottone. Lo udii ronzare in corridoio e poi qualcuno si avvicinò con le suole di gomma lungo il corridoio. Era la gage. Nella chiara luce del sole era un po' più vecchia, un po' meno carina. «Buongiorno», disse. «Ha dormito bene?» «Sì, grazie tante», dissi. «Potrei avere un barbiere?» «Sono venuto a vederla e stava dormendo con questo sul letto». Aprì l'armadio e mi mostrò la bottiglia di vermouth. Era quasi vuota. «Ho messo qui anche l'altra bottiglia che c'era sotto il letto», disse. «Perché non mi ha chiesto il bicchiere?» «Pensavo che non me l'avrebbe dato. Ne avrei bevuto un po' con lei. È una brava ragazza. Non le fa bene bere da solo», disse. «Non deve farlo». «Bene». «È arrivata la sua amica, Miss Barclay», disse. «Sì?» «Sì. Non mi piace». «Le piacerà. È talmente simpatica». Scosse il capo. «Certo, è simpatica. Può spostarsi un poco da questa parte? Così. La faccio bello per la colazione». Mi lavò con un panno e sapone e acqua calda. «Tenga sulle spalle», disse. «Così. Posso avere il barbiere prima di colazione? Manderò il portiere a chiamarlo». Uscì e ritornò. «È andato a cercarlo», disse, e tuffò il panno che aveva in mano nel catino d'acqua. Il barbiere arrivò col portiere. Aveva una cinquantina d'anni e i baffi all'insù. La gage aveva finito e uscì, e il barbiere mi insaponò la faccia e mi rase. Era molto solenne ed evitava di parlare. Udii qualcuno scendere in corridoio. Guardai la porta. Era Catherine Berkeley. Entrò nella stanza e si avvicinò al letto. «Allò, caro», disse. Era fresca e giovane, bellissima. Pensai che non avevo mai visto nessuna così bella. «Allò», dissi. Quando la vidi mi innamorai di lei. Mi sentii sconvolto. Guardò la porta, vide che non c'era nessuno, allora sedette su un lato del letto e si curvò a baciarmi. La tirai giù e la baciai, le sentii battere il cuore. «Tesoro», dissi. «Non sei stata magnifica a venire qui. Non è stato molto difficile, può diventare difficile rimanere». «Deve rimanere», dissi. «Sei stupenda». Ero pazzo di lei. Non riuscivo a credere che ci fosse davvero e la tenevo stretta a me. Fino al pomeriggio. Il dottore era un ometto magro e silenzioso e pareva turbato dalla guerra. Mi tolse una quantità di minuscole schegge d'acciaio dalle cosce con disgusto sensibile e raffinato. Usava un anestetico locale che si chiamava qualcosa come neve, che gelava il tessuto ed evitava il dolore finché la sonda, il bisturi o la pinza giungevano sotto alla parte gelata. La zona anestetizzata era chiaramente percepita dal paziente e dopo un certo tempo la fragile sensibilità del dottore si esaurì. Mi disse che era meglio fare una radiografia. La sonda non bastava, disse. La radiografia venne fatta all'ospedale maggiore e il dottore che la fece era nervoso, abile e allegro. Sorretto per le spalle, il paziente poteva vedere di persona qualcuno dei maggiori corpi estranei attraverso l'apparecchio. Le lastre sarebbero state mandate. Il dottore mi chiese di scrivere nel suo taccuino il mio nome e il reggimento e un pensiero. Dichiarò che i corpi estranei erano brutti, villani, brutali. Gli austriaci erano figli di puttane. Quanti ne avevo uccisi? Non ne avevo ucciso nessuno, ma ero ansioso di riuscirgli simpatico. E dissi che ne avevo ucciso una quantità. Mi aveva accompagnato la Gage. E il dottore le cinse la vita col braccio e disse che era più bella di Cleopatra. Aveva capito? Cleopatra, l'antica regina d'Egitto. Sì, per Dio se era vero. Ritornammo in ambulanza al piccolo ospedale e dopo un po' di tempo e un gran venir sollevato fui di sopra e di nuovo a letto. Le lastre arrivarono quel pomeriggio. Il dottore aveva detto per Dio che le avrebbe avute quel pomeriggio e le ebbe. Me le mostrò Catherine Berkeley. Erano in buste rosse e le tolse dalle buste e le sollevò contro la luce e le guardammo insieme. «Questa è la gamba destra», disse, poi rimise la lastra nella busta. «Questa è la sinistra». «Mettile via», dissi, «e vieni a letto». «Non posso», disse, «te l'ho solo portato un momento per fartele vedere». Se ne andò e io rimasi lì. Era un pomeriggio caldo ed ero stanco di stare a letto. Mandai il portiere a prendere i giornali. Tutti i giornali che poteva trovare. Due ore dopo il dottor Valentini entrò nella stanza. Aveva una gran fretta e le punte dei baffi ritte in su. Era maggiore, aveva la faccia bronzata e rideva continuamente. «Come se l'è fatta, questa porcheria?» chiese. «Faccia vedere le lastre». «Sì, sì, ecco». All'aria sana come un pesce. Chi è la ragazza? È la sua ragazza? Non lo immaginavo. Non è una guerra maledetta. Fa male? Lei è un bravo ragazzo. La rifarò meglio di prima. Fa male così, eh? Lo credo che fa male. Ci godono a farle male questi dottori. Che cosa hanno fatto per lei finora? Sa parlare italiano quella ragazza? Dovrebbe impararlo. Che bella ragazza. Potrei insegnarglielo io. Voglio venire io qui come paziente. No, mamma, le farò gratis tutto il lavoro della maternità. Capisce quello che ho detto? Le farà un bel maschio, una bella bionda come lei. Bene, che bellezza, bella ragazza. Le chieda se vuole venire a cena con me. No, non gliela porterò via di qui. Grazie, grazie tante, signorina. Ecco fatto. Ecco fatto. È tutto quello che volevo sapere. Mi batté la mano sulla spalla. Rimanga pure senza bende. Vuole bere qualcosa, dottor Valentini? Bere? Certo. Berrò 10 bicchieri. Dove sono? Nell'armadio. Miss Barclay prenderà la bottiglia. Allegria. Salute a lei, signorina. Bella ragazza. Le porterò del cognac migliore di questo. Si pulì i baffi. Quando crede che si possa operare? Domattina. Non prima. Bisogna che abbia lo stomaco vuoto. Bisogna che sia lavato. Vedrò la vecchia di sotto e lascerò istruzioni. Arrivederci. A domani. Le porterò del cognac migliore di questo. Qui è molto ben sistemato. Arrivederci a domani. Dorma bene. Verrò presto. Mi salutò con la mano dalla porta, coi baffetti ritti e il viso bruno sorridente. Aveva una stelletta in un quadratino sulla manica perché era maggiore. Quella notte un pipistrello entrò nella stanza dalla finestra aperta che dava sul balcone e dalla quale la notte guardavamo i tetti della città. Era buio in camera, tranne per la pallida luce della notte sulla città, e il pipistrello non era spaventato ma andava a caccia nella stanza come se fosse stato fuori. Restammo distesi a guardarlo. e non credo che ci vedesse perché restammo immobili. Quando fu uscito, vedemmo un riflettore avvicinarsi e osservammo il raggio attraversare il cielo e poi scomparire. E ritornò il buio. Entrò un po' d'aria della notte e udimmo gli uomini dell'artiglieria antiaerea chiacchierare sul tetto vicino. Faceva freddo e si stavano mettendo le mantelle. Durante la notte mi preoccupai che qualcuno venisse, ma Catherine diceva che dormivano tutti. Una volta ci addormentammo e quando mi svegliai non c'era, ma la udì avvicinarsi nel corridoio e la porta si aprì e ritornò a letto e disse che tutto andava bene. Era stata di sotto e dormivano tutti. Si era fermata davanti alla porta della Van Campen e l'aveva sentita respirare nel sonno. Portò dei biscotti e li mangiammo e bevemmo un po' di vermouth. Avevamo molta fame, ma disse che al mattino avrebbero dovuto togliermi tutto di dentro. Mi raddormentai il mattino quando già era chiaro e quando mi svegliai mi accorsi che se n'era andata di nuovo. Entrò fresca e bella e sedette sul letto e il sole si alzò mentre avevo il termometro in bocca e odorammo la rugiada sui tetti e poi i caffè degli uomini al pezzo sul tetto vicino. «Mi piacerebbe andare a fare una passeggiata», disse Catherine. «Ti spingerei se avessimo una carrozzella». «Come farei a entrare nella carrozzella?» «Ci riusciremmo. Potremmo andare in giardino e far colazione fuori». Guardavo fuori della finestra aperta. «Quel che faremo in realtà», disse, «è di prepararti per il tuo amico dottor Valentini». Mi è parso straordinario. «Ma a me è piaciuto un po' meno. Ma immagino che sia molto bravo». «Ritorna a letto, Catherine. Ti prego». «Non posso. Non è stata una bella notte». «E potrei essere di nuovo in servizio stanotte». «Probabilmente lo sarò, ma non mi vorrai stasera». «Sì che ti vorrò. Starai male e non ti interesserò per niente». «Allora ritorna adesso». «No», disse. «Devo scrivere la tua cartella, caro, e prepararti. Se mi amassi davvero, ritorneresti». «Che stupido». Mi baciò. «Va bene per la cartella. La temperatura è sempre normale. È una temperatura splendida». «Tu hai splendida ogni cosa». «Oh no. Hai una temperatura splendida. Sono molto orgogliosa della tua temperatura. Magari tutti i nostri bambini avranno temperature magnifiche. Probabilmente i nostri bambini avranno temperature orrende. Che cosa mi devi fare per prepararmi per Valentini?» «Non molto, ma molto spiacevole. Vorrei che non dovessi farlo tu». «Ma io no. Non voglio che ti tocchino le altre. Sono stupida. Divento furiosa se ti toccano. Anche la Ferguson?» «Specialmente la Ferguson, e la Gage, e quell'altra, come si chiama? Walker?» «Sì, hanno troppe infermiere qui. Se non arriva qualche altro paziente ci manderanno via. Hanno 4 infermiere adesso. Forse ne arriverà qualcuno. C'è bisogno di molte infermiere, un ospedale importante. Spero che ne arriverà qualcuno. Che cosa faccio se mi mandano via? Mi manderanno via se non vengono altri pazienti. Verrei via anch'io». «Non fare lo stupido, non puoi ancora andare via. Ma guarisci presto, caro. E andremo da qualche parte. E poi? Forse la guerra sarà finita, non può durare sempre». «Guarirò», dissi. «E Valentini mi metterà a posto». «Dovrebbe riuscirci con quei baffi. E, caro, quando sei sotto l'etere, pensa a qualcos'altro. Non a noi, perché la gente diventa molto chiacchierona sotto l'anestetico». «A che cosa devo pensare?» «A qualunque cosa tranne noi. Pensa ai tuoi, o magari a un'altra ragazza». «No». «Allora di le tue preghiere, questo dovrebbe fare un'impressione splendida». «Magari non parlerò». «È vero, spesso la gente non parla». «Non parlerò». «Non darti delle arie, caro, per favore, non darti delle arie. Sei così caro, non devi darti delle arie». «Non dirò una parola». «Ora ti stai dando delle arie, caro». «Sai, non è necessario che ti dia delle arie. Incomincia solo una preghiera, una poesia o qualcosa quando ti dicono di respirare profondamente. Sarai così carino e io sarò così orgogliosa di te». «Sono comunque molto orgogliosa di te. Hai una così bella temperatura e dormi come un ragazzino col braccio intorno al guanciale e credi che sia io. O è un'altra ragazza, una bella ragazza italiana». «Sei tu. Si capisce che sono io. Ti amo e Valentini ti farà una bella gamba. Sono lieta di non dover assistere. E sarai di turno stanotte». «Sì, ma non te ne importerà. Aspetta e vedrai. Ecco, caro, ora sei tutto pulito di dentro e di fuori. Dimmi, quante donne hai amato?» «Nessuna». «Neanche me?» «Sì, te». «Quante altre, sul serio?» «Nessuna». «Con quante sei, come dire, andato?» «Nessuna». «Stai dicendo una bugia?» «Sì, Va bene, continua a dirmi bugie, è quello che voglio. Erano carine? No, non sono mai andato con nessuna. È vero. Erano molto belle. Non ne so niente. Sei solo mio. Questo è vero. E non sei mai appartenuto ad altre. Ma non importa se non è così. Non ho paura di loro. Ma non parlarmi di loro. Quando un uomo va con una ragazza, quando è che lei dice quanto costa? Non lo so. Si capisce. Gli dice anche che lo ama? Dimmi questo. Questo voglio saperlo. Sì, se lui vuole. E lui dice che la ama? Dimmelo, per favore. È importante. Se vuole, glielo dice. Ma tu non l'hai mai detto? Davvero? No. Davvero no? Dimmi la verità. No. Mentì. Non potresti, disse. Sapevo che non potresti. Ti amo, caro. Fuori il sole si era levato sui tetti e vedevo le guglie della cattedrale sotto il sole. Ero pulito dentro e fuori e aspettavo il dottore. Succede così allora? Disse Catherine. Dice solo quello che lui vuole? No, non sempre. Ma io lo farò. Dirò solo quello che desideri e farò quello che desideri. E tu non desidererai mai altre ragazze, vero? Mi guardava molto felice. Farò quello che vuoi e dirò quello che vuoi e così ti piacerò tanto, vero? Sì. Che cosa vuoi che faccia adesso che sei pronto? Ritorno a letto. Bene. Vengo. Oh, cara, cara. Cara, dissi. Vedi? Disse. Faccio tutto quello che vuoi. Sei così bella. Temo di non essere ancora molto brava. Sei bella. Voglio quello che vuoi tu. Non c'è altro. Solo quello che tu vuoi. Tesoro, sono buona? Non sono buona, non desideri altre ragazze, vero? No, vedi, sono buona. Faccio quello che vuoi.